Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, quali volete che siano i temi, al di là delle dichiarazioni che sta rilasciando adesso il ministro Padoan che vi racconteremo anche come risposta alle obiezioni mosse dall'Europa nel corso del fine settimana. Ha detto Padoan: attenzione, l'Europa è al bivio sulla crescita, l'Europa non è ancora del tutto uscita dalla crisi, e poi è un incontro con la stampa estera in corso, e poi il governo mantiene l'obiettivo di privatizzazione fissato nel documento economico finanziario allo 0,7% del PIL per quest'anno, visto che il PIL è più o meno sui 16-17 miliardi, siamo intorno ai 9-10 miliardi di privatizzazioni. Ancora indispensabile ridurre il debito pubblico, e la crescita italiana è molto debole. A noi risulta che sia ancora più debole, molto debole. Poi vedremo i prossimi dati ufficiali, è inutile fare speculazioni adesso. Speriamo ampiamente di sbagliarci. Ma dicevo, al di là del ministro Padoan, che parla nel giorno in cui la disoccupazione, diciamo, è leggermente calata, ma se la prendiamo nei primi tre mesi è ai massimi da quando la misuriamo, cioè dal 1977 al 13,6%. Così come la disoccupazione giovanile ai massimi da quando la misuriamo, sempre dal 1977, al 46%, con disoccupati che sfiorano i 3 milioni e mezzo nei primi tre mesi dell'anno. Dicevo, pensate che al sud la disoccupazione ha toccato il 61% per i giovani. So già che qualcuno mi risponderà: beh, lì c'è il lavoro nero. Ho capito, però cioè, il 61% dei giovani del nostro sud non lavora. Ancora, l'inflazione invece oggi ha dato di nuovo segni di un calo, e su questo ci si attende che nella settimana la Banca Centrale Europea intervenga con le famose misure non convenzionali, e quindi addirittura l'ipotesi di tassi di rendimento negativi per chi deposita i soldi, per le banche che depositano i soldi nella BCE la sera e li riprendono la mattina, il cosiddetto tasso overnight, in modo da rendere sempre meno conveniente, in questo caso sconveniente, il deposito dei soldi da parte dei gruppi bancari. Ma dicevo, mentre questo è lo scenario macroeconomico anche di carattere europeo, due sono i temi che riguardano l'economia di questo paese, l'economia reale in questo caso, e mi riferisco all'Italia, su cui tracceremo un punto. Ci sono un po' di resistenze delle banche, di alcune banche, c'è il tema degli esuberi, ma insomma la partita sembra destinata a chiudersi. Do una mia opinione totalmente personale, per fortuna e meno male, nel senso che questa ipotesi con Etihad, stando a quello che leggiamo, un'ipotesi che potrebbe portare a un rilancio vero e proprio di Alitalia. Dall'altro c'è tutto il tema Rai, anche qui varie dichiarazioni oggi. Il garante sugli scioperi dichiara illegittimo lo sciopero del 16 alla Rai. Per quello che riguarda invece i sindacati, sono quasi tutti, tranne una posizione un po' diversa della CISL, ma sia Camusso che Angeletti, molto contrari alla misura presa da Renzi, 150 milioni di taglio. Dicevo, sì, il garante ha dichiarato illegittimo lo sciopero dell'11 luglio, però oggi i nostri microfoni, dell'11 giugno, scusatemi, ma i nostri microfoni oggi il presidente della commissione vigilanza Rai, Roberto Fico, poi lo ascolteremo, ha detto: no, difendo lo sciopero, Renzi vuole vendere gli asset strategici, e quindi si va verso lo sciopero l'11 giugno, ma a noi quello che interessa è capire se al di là dello sciopero, se veramente il 150 milioni di taglio rappresentino un massacro per il nostro servizio pubblico, oppure vi siano, diciamo così, dei margini per risparmiare. Perché do solo un dato, poi uno può dire che le sedi regionali servono, perché ha risposto, se non ricordo male, Lusigrai, che le sedi regionali Milano, Torino, Napoli producono 12.000 pezzi l'anno, e quant'altro. Non voglio entrare sulle polemiche che farebbero parte della nostra rubrica sugli sprechi della pubblica amministrazione, perché voi dovete spiegarmi la sede della Val d'Aosta se va bene così com'è, dovete spiegarmi perché la sede in Toscana, Firenze, è di 18.000 metri quadri con 132 persone, sono 136 metri quadri a testa, forse un po' tanto per la sede regionale della Toscana, che produce principalmente i tre TG regionali. È anche vero che in Sardegna ci sono addirittura due sedi, una a Cagliari, l'altra a Sassari. A Sassari ci sono 1100 metri quadrati a disposizione per 7 persone. Un senso di solitudine immenso, immagino, nella sede Rai di Sassari. Però usiamo un dato economico di bilancio proprio su tutti, perché tutto il resto poi è polemica, è difesa, è attacco. Il dato è il costo del personale sui ricavi. È una delle prime voci che qualunque manager va a guardare quando prende in mano un'azienda. Allora, qui noi non c'entriamo. Il costo del lavoro a Sky pesa per il 7% dei ricavi. Il costo del lavoro a Mediaset pesa per il 13% dei ricavi. Il costo del lavoro in Rai pesa per il 36% dei ricavi. Vuol dire che ogni 100 euro di ricavi, 36 in Rai se ne vanno per pagare il personale, 13 euro invece se ne vanno a Mediaset per pagare il personale e 7 euro se ne vanno a Sky. Uno dovrebbe dire, beh, la qualità dell'informazione, dell'intrattenimento Rai è 4-5 volte superiore a quella di Sky e diciamo almeno 3 volte superiore a quella di Mediaset. Queste sono opinioni. Io faccio solo notare che la Rai ha un costo del personale altissimo rispetto ai suoi concorrenti, che non fanno proprio un servizio così diverso e così più scadente da giustificare il costo del personale. Tutto il resto, ripeto, è polemica, politica e quant'altro, ma ne parleremo più avanti. La borsa come va oggi? Per quello che riguarda Milano è in linea con le altre borse europee, anche se perde leggermente di più, meno 0,50% Milano, meno 0,20% Parigi, meno 0,25% Francoforte, meno 0,55% Londra, meno 0,22% l'America. Tra i titoli, positiva A2A più 1% come Enel Green Power, mezzo punto lo guadagna Buzzi Unicem ed Eni, ma anche il Monte dei Paschi. Scusatemi, sul fronte opposto invece Banco Popolare meno 2,90%, il 2,70% lo perde Mediaset, il 2% World Duty Free, ma anche Campari, l'1,80% lo perde Azimut, l'1,70% lo perde da questo punto di vista Mediobanca e l'1,60% lo perde la Popolare di Milano e UbiBanca. Ancora chiedo in regia se posso vedere l'acqua cortesemente prima di strangolarmi, grazie. Pirelli meno 1,30%, Autogrill meno 1,30%, Jux meno 1,20%, Intesa San Paolo meno 1,20%, Atlantia meno 1 come Exor. 349-238-6666 per i vostri sms alla pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per il resto, le altre notizie di questa giornata, dicevamo già del ministro dell'economia Padoan sulla riduzione del debito e su una crescita italiana molto debole, nel giorno in cui ricordava la disoccupazione ha toccato i livelli massimi dal 77, sia giovanile che quella normale nei primi tre mesi dell'anno, ripeto, al 13,6% la disoccupazione e al 46% quella giovanile. I disoccupati appunto sfiorano i 3 milioni e mezzo di persone, gli scoraggiati, cioè quelli che non cercano il lavoro, salgono a quasi 2 milioni di persone. Il ministro Poletti dice l'obiettivo è procedere per produrre i cambi di segno a fine anno con il PIL, il dato sul lavoro risente di un PIL in calo anche nei primi tre mesi. Purtroppo i segnali che stanno arrivando, non voglio darmi il gufo da solo, anzi non mi do il gufo da solo perché non c'è il gufo in regia, va bene, oggi è iniziata così la giornata. purtroppo i segnali che stanno arrivando a livello congiunturale sono segnali in cui anche il secondo trimestre, mettiamola così, non sarà un trimestre esaltante. Vabbè, i dati Istat sull'occupazione li ha commentati oggi Luigi Angeletti, segretario della UIL, a margine di una conferenza stampa sulla RAI che ascolteremo dopo, perché le dichiarazioni più forti arrivano sulla RAI, però Angeletti. No, ecco, la soluzione, soluzione in un miracoli non sono nella natura umana. L'importante è smettere di fare gli errori che ci hanno portato a queste condizioni. E gli errori che ci hanno portato a queste condizioni è banalmente troppe tasse, e troppe tasse anche alle imprese, non solo ai lavoratori, anche alle imprese. Cioè il contrario di quello che vuole fare Renzi. E l'allarme sulla disoccupazione oggi l'ha lanciato anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Dice: il dato veramente preoccupante è questo aumento della disoccupazione su base annua, più 0,8%. Stiamo strisciando sul fondo, non raccontiamoci storielle. Le stime comunque sulla produzione industriale, non sul PIL, sono di un lieve miglioramento, l'ha diffuso oggi il Centro Studi di Confindustria, a maggio più 0,2, però rispetto al livello prima della crisi del 2008 siamo a un meno 24,2%. Sempre Squinzi oggi è tornato sul tema dei 90-100 miliardi di pagamenti arretrati dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e ha detto: attenzione, serve una spinta per velocizzare. Finora sono stati pagati 25, forse 28 miliardi su un totale di 100 miliardi e l'Expo, chiudendo Squinzi all'Assemblea degli Industriali di Varese, è il primo grande evento che può stimolare la crescita dall'inizio di questa sanguinosa crisi. Volete anche avere aggiornamenti sulla vicenda dell'Italia? Sarà un apposito approfondimento. Allora, l'Italia, Poletti stima in 2004 2500 gli esuberi stimati, si dovrà poi vedere con la discussione tra le parti quale sarà la cifra finale. Ancora il segretario della CGIL Susanna Camusso dice: commenteremo dopo la lettura del piano industriale, e giudizio analogo dà anche la UIL di Angeletti. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, rapidamente, prima di arrivare al tema all'Italia, di cui parleremo tra un attimo, alcune notizie di oggi che vanno in questo nuovo clima. Molti mi chiedono in questi giorni: ma c'è un nuovo clima nel paese? Guardate, io non so se ci sia un nuovo clima nel paese per tanti versi. Su una cosa però, insomma, ho l'idea abbastanza chiara: non è più aria di certe cose. Lo dico anche col massimo rispetto ai sindacati, all'Usigrai. Attenzione, perché in questo momento, con i numeri che abbiamo appena letto, una protesta che dovesse sembrare solo, lo dico anche ai colleghi giornalisti della RAI, solo una difesa dello status quo senza nessuna proposta, non verrebbe capita dal paese. Poi voi avete sicuramente il vostro modo di valutare quella che è l'opinione regnante nel paese. Da quello che vediamo noi, dal nostro modesto osservatorio, non è aria di auto blu, non è aria di difesa di privilegi, di diritti solo perché acquisiti, non è aria di, diciamo, anche buone uscite milionarie. E infatti nella nostra rubrica partiamo da una proposta che è arrivata, sarà segno dei tempi, sarà quello che volete, però una modifica allo status quo delle buone uscite dei manager depositata la scorsa settimana nella Commissione Bilancio e Finanze. Thank you. sì, c'è un emendamento che vorrebbe tassare di più le buone uscite milionarie dei vertici delle società partecipate dallo Stato, e quindi Eni, Enel, Terna e Finmeccanica. Perché le buone uscite, le abbiamo viste, sono 23 milioni di euro, in realtà all'ex ministro legato alle poste Massimo Sarmi spetterebbero 6 milioni, ma il CDA ha preso tempo. E il meccanismo è contenuto in un emendamento al decreto IRPEF presentato dalla senatrice Linda Lanzillotta, ossia un'aliquota aggiuntiva del 25% sulle somme extra erogate agli amministratori legati e ai direttori generali, che chiaramente, escluso il TFR, che a fine mandato poi lasciano la guida dei grandi gruppi pubblici. Perché, dice la Lanzillotta, intanto dice il PD dovrà decidere da che parte sta, è stato molto evasivo, dice: non si capisce perché chi ha guidato un'azienda pubblica con stipendi d'oro debba ricevere anche un bonus milionario una volta concluso il lavoro. Alessandro Pansa di Finmeccanica, ex di Finmeccanica, ha preso 5.450.000 euro. Ora, a nostro avviso ha fatto anche un buon lavoro Alessandro Pansa, però è rimasto in carica poco più di un anno, è vero che calcolava anche il periodo precedente. Comunque, 8 milioni Paolo Scaroni, ex dell'Eni, 2 milioni e 4 Flavio Cattaneo a Terna e 7 milioni liquidati da Enel a Fulvio Conti. Con la nuova norma, circa 15 milioni, poco meno, finirebbero nelle tasche dell'erario. In effetti un po' di confusione c'è, perché il Tesoro ha previsto un tetto per gli stipendi dei nuovi presidenti, non dei manager delle società quotate, perché sono quotate, non degli AD, ma dei nuovi presidenti a 240.000 euro. Una norma del genere forse andrebbe in questa linea. Ma dai top manager delle partecipate dello Stato passiamo adesso alle... Ah sì, sì, ha ragione l'ascoltatore che dice: anche oggi lei ci dà la solita dose di populismo. Ma guardi che mi sa che in questo caso il populismo va preso nella voce e nella definizione di atteggiamento del popolo, perché a giudicare dalle ultime elezioni e da certe risposte avute in certe aree del paese... Guardi che, lo dico in maniera molto neutra, non è più aria per certe cose. Poi ci sono periodi nella vita, ci sono, il ventennio dagli anni 80 al 2008 è stato un ventennio di individualismo, crescita economica e quant'altro, ostentazione, lo sappiamo tutti, non è un programma di sociologia questo. A mio avviso qui ci aspetta un altro ventennio, che è iniziato nel 2008-2009, o forse parlare di ventennio non porta così bene, diciamo, ci aspettano degli altri anni, va. Allora, le auto di servizio, siamo a Milano, con tanto di autista usate dagli ufficiali dei vigili nel tragitto fra casa e comando per fare commissioni che nulla hanno a che vedere con il lavoro durante il turno di servizio, verranno controllate e penalizzate. La situazione in realtà l'hanno denunciata alcuni sindacati della polizia locale, e segnalano l'uso improprio dei mezzi di servizio con autista. Una comunicazione del capo di gabinetto Antonio Barbato mette in guardia: le auto destinate al trasporto dei dirigenti, sono una decina, devono essere usate solo per consentire ai graduati di raggiungere il luogo di intervento in caso di emergenze. Un agente dei vigili milanesi, da anni in servizio come autista della cosiddetta pattuglia graduato, racconta: tutti sanno che in teoria l'auto servirebbe al commissario aggiunto che svolge il ruolo di capo turno per interventi su casi gravi, ma capita di accompagnare gli ufficiali ai corsi di lingua piuttosto che a ritirare la corrispondenza presso uffici postali o a fare la spesa. A questo punto si sta pensando di mettere un dispositivo GPS collegato alla radio di bordo in modo da geolocalizzare, ma insomma mi sembrerebbe un po' umiliante per un dirigente dei vigili urbani che ha il compito di far rispettare le regole, fare mettere un GPS, perché potrebbe essere il dirigente stesso a mai utilizzare questa risorsa. Mi capita di andare dalla camiciaia dell'ufficiale e tirare un pacco, di accompagnare il superiore a una visita oculistica, mi è successo di accompagnare l'ufficiale anche fuori dal comune per questioni che nulla hanno a che fare con il lavoro. Addirittura ho dovuto ritirare, spiega un altro vigile autista, una grande scatola in un negozio di animali con scritto attrezzature per acquario. il colto e Conte era saldato dal mio dirigente. Vabbè, mettiamo così, le attrezzature per l'acquario servivano a uno dei dirigenti dei vigili per navigare bene, visto che di solito questo serve. Allora, quando diciamo che non è più aria, ci riferiamo anche a questo. Ma ci riferiamo anche alla mitica regione Sicilia. I gruppi parlamentari in Sicilia pagarono anche salumi, bistecche, mazzi di mimose e persino bollette dell'Enel e canone Rai, che avrebbero dovuto pagare di tasca propria con i fondi pubblici, ma pagarono anche tablet, raccolta di fumetti, necrologi, pranzi e regali di nozze. Questo emerge dalla montagna di scontrini allegati alle 1279 pagine del rapporto che la Guardia di Finanza ha consegnato alla Procura. Emerge veramente di tutto. Ci sono 97 persone indagate, di cui 83 politici, più 14 consulenti dei gruppi. Le casse dei gruppi consiliari alla Regione Sicilia venivano utilizzate spesso come bancomat e ve ne racconto, se ho un paio di minuti, ve ne racconto due o tre perché sono bellissime. L'ex deputato Franco Mineo mise sul conto del gruppo Forza Sud 520 euro usati per l'acquisto di 14 cassate con la S siciliane per oltre 43 kg. L'ex capogruppo del PD, Innocenzo Leontini, si è fatto rimborsare 273 euro per l'acquisto di libri alla Feltrinelli di Palermo e una collana di jazzisti cubani. E beh, come no. E poi le mance, il PD generosissimo, con i camerieri, 100 euro dopo un pranzo elettorale, il Movimento per le Autonomie, Lombardo, 300 euro al personale della buvetta di Palazzo Normanni, tutto pagato, cioè le mance vanno benissimo, ma non coi soldi nostri, tutto pagato coi fondi gruppi. E poi l'ex capogruppo del PD, Antonello Cracolici, si sarebbe fatto anticipare dal gruppo soldi usati per le proprie bollette dell'Enel, della Tarsu, per pagare il canone Rai, per la gita di istruzione della figlia, 200 euro, 15 euro per l'acquisto di mimose. Ma se fosse vero, veramente è un altro caso da Victor Hugo. Ma addirittura le mimose per la sua compagna, non so per chi, le fai pagare a noi. Ma quella dire, se ce le fai pagare a noi, allora... Buono. Buoni in regia. Il politico poi ha restituito 80.000 euro, ma secondo i finanzieri 22.000 euro non sarebbero spese istituzionali, quindi non potevano essere anticipati con i fondi del gruppo. Sempre dalle spese del PD emergono prestiti all'ex senatore Vladimiro Crisafulli per pagare l'ICI, per pagare due polizze assicurative da 1.000 euro, anche 270 euro per Gianni Parisi per anticipare l'ICI di casa sua. Ma stiamo impazzendo. E non risultano restituzioni secondo la Guardia di Finanza. Vorrei chiudere con la Sicilia ricordando che dal prossimo mese Totò Cuffaro, ex presidente che oggi è detenuto a Rebibbia, ex governatore della Sicilia e senatore della Repubblica detenuto a Rebibbia, perderà il vitalizio d'oro. Ora uno dice bene. No, attenzione, lui perderà il vitalizio d'oro non per la condanna per mafia, ma perché ha rivelato un segreto d'ufficio, perché la sospensione del vitalizio vale solo per chi ha compiuto reati contro la pubblica amministrazione. Chi ha commesso delitti più gravi viene salvato. Infatti il presidente dell'ARS, dell'Assemblea regionale siciliana, Ardizzone, ha dovuto farsi inviare dalla Corte di Appello di Palermo l'intero dispositivo della sentenza, guardarla tutto e scoprire che c'era pure un altro reato minore, in modo da poter levare il vitalizio a Totò Cuffaro, anche perché obiettivamente non era l'unico caso che abbiamo raccontato, ma prendere 6.000 euro lordi al mese quando sei in carcere, no? Il decreto Monti, però, quello recentemente recepito dall'Assemblea regionale siciliana, non esclude i condannati per mafia, e questo è proprio un mito. E tra l'altro nell'aula dell'Assemblea siciliana giovedì è stato messo ai voti un emendamento dei Grillini che prevedeva proprio la sospensione del vitalizio per i responsabili di reati mafiosi. Ma pensate un po' quanto è brava l'Assemblea regionale siciliana. Il 5 Stelle propone la sospensione del vitalizio per chi è condannato per reati mafiosi. La norma viene bocciata dall'Assemblea regionale siciliana con 33 voti contrari su 58. Allora, vogliamo cambiarle queste norme di Monti? Nel senso che io non sto dicendo, mi limito a registrare quello che è la sentenza della magistratura, ma se uno è condannato per mafia, almeno possiamo levargli il vitalizio? Ce n'è anche un altro esempio, Marcello Dell'Utri, malgrado una condanna definitiva a 7 anni di carcere per concorso estremo a Cosa Nostra, continua a ricevere il vitalizio da 4.400 euro al mese. Io non voglio dare giudizio su Dell'Utri, ha già dato la Cassazione, anzi tre livelli. Ma sì, è normale un paese che paga con i soldi dei contribuenti 4.400 euro di vitalizio a uno che è condannato per mafia? Si chiami Sebastiano Barisoni, Marcello Dell'Utri o Sergio Rossi? A mio avviso è follia. Poi mi dite che sono populista. Ah boh. Meteo, pubblicità e iniziamo dall'Italia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. È appena arrivata la notizia proprio su Alitalia, che è il nostro tema adesso. Dice la Commissione europea: la maggioranza della compagnia aerea deve restare in mani europee, così come il suo controllo. In caso contrario, l'Italia violerebbe il regolamento comunitario. Spetta alle autorità italiane valutare il rispetto della norma. Mi sembra che non sia, però è una preoccupazione di Bruxelles. In realtà l'operazione con Etihad, se ricordo bene, prevede che Etihad entri col 49% dentro all'Italia. La cifra è un po' più alta adesso, ho visto dichiarazioni fino a 600 milioni di euro. Oggi il ministro Poletti ha detto, ministro del lavoro Giuliano Poletti ha detto che gli esuberi stimati sono in 2.400-2.500, poi si dovrà vedere la discussione tra le parti. Prendono tempo sia Camusso, quindi la segretaria del CGIL, che Luigi Angeletti, il quale dice, come abbiamo sentito già, aspettiamo il piano, poi daremo il nostro parere. Invece l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina. Le due grandi banche creditrici di Alitalia sono Unicredit e Intesa San Paolo. Valuteremo le condizioni di Etihad, aspettiamo di vedere i termini di cui si parla. È noto che le banche non vedono l'ora di uscire dall'Italia, recuperando il più possibile i crediti concessi, tant'è che Messina ha detto: noi garantiremo la stabilità, poi usciremo dall'Italia. Sulle ricadute della trattativa però è intervenuto oggi al microfono del nostro Simone Spezia durante effetto giorno il governatore della regione Lombardia Roberto Maroni. Non conosco i dettagli, non conosciamo i dettagli dell'operazione, voglio incontrare nei prossimi giorni il ministro Lupi per avere chiarimenti. Benissimo se Etihad entra in Alitalia, un po' meno bene che ci siano 2.400-2.500 esuberi, se però questo penalizza Malpensa gli esuberi raddoppieranno come minimo, perché tutto l'indotto di Malpensa subirà conseguenze. E visto che Malpensa è considerata dal governo, non solo da me, uno degli hub principali del nord, Malpensa e Venezia, e queste voci che circolano, che dicono che Etihad imporrebbe tra virgolette al governo, richiederebbe al governo una penalizzazione, francamente incomprensibile di Malpensa. Non è una questione o guerra di campanile, è il sistema aeroportuale lombardo e quindi del nord che verrebbe penalizzato. Noi abbiamo investito molto su Malpensa, l'ultimo investimento della regione sono 30 milioni di euro per completare il collegamento T1-T2, i due terminal con l'alta velocità. Se poi tutti questi soldi vanno a finire in niente, è un peccato, no? Quindi è solo preoccupazione, non siamo contro l'ingresso di Etihad, vorremmo capire che cosa c'è in queste carte che sono ancora misteriose, perché io non le conosco. Nel caso fosse confermata lo spostamento su Linate, che cosa fareste? Cercherò cercheremo di convincere il governo a cambiare idea e rivedremo tutta la nostra strategia di investimenti sui collegamenti a Malpensa e anche l'intervento che io sono disposto a fare, lo sa il sindaco di Milano, nel capitale di SEA. Ci posso mettere ingenti risorse, a condizione però che il sistema aeroportuale lombardo venga rafforzato e non penalizzato come in questo caso. Allora, devo dire due cose, che il governatore Roberto Maroni, nostro ospite, ricordo male, un mese fa, spiegò bene quella che è la regione Lombardia, un po' non può entrare in questo capitale. In realtà, come gli dicemmo modestamente, a mio avviso, attenzione, Malpensa deve il più possibile ragionare immaginando una presenza di Alitalia comunque minoritaria e comunque non determinante per il suo futuro. Già l'ha fatto, perché l'ingresso di Emirates con il collegamento per Dubai, ma anche per New York, va in questa direzione. Non c'è solo Emirates, ci sono tante altre compagnie su questo. Però Malpensa, è chiaro che per Alitalia, che si chiami Alitalia con gli Emirati Arabi di Abu Dhabi, che si chiami Alitalia con il piano vecchio, Alitalia Malpensa interessa solo marginalmente, quindi è meglio che pensi a vivere con le proprie gambe senza quelle di Alitalia, o utilizzando poco, diciamo, il supporto di Alitalia. Comunque, fino a 600 milioni di euro metteranno gli Emirati Arabi di Abu Dhabi e quindi Etihad per comprare una quota tra il 45 e il 49%. Chiedono 2600 esuberi, lo scudo sui contenziosi legali pregressi, rinegoziare il debito, misure per la liberalizzazione dei voli da Linate e il contenimento degli slot per le low cost. Per meglio dire, un incremento delle rotte, nuovi aerei, potenziamento di Fiumicino e Linate per portare l'Italia dagli attuali 2,7 almeno 3,7 miliardi di ricavi entro il 2016. Ad Alitalia dovrebbero essere anche girati una parte dei 140 nuovi Boeing Airbus da poco acquistati da Etihad, con un esborso complessivo di 100 miliardi di euro. E poi i collegamenti da Fiumicino passare da 80 a 100, quelli intercontinentali, da Linate. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ciao. Allora Gianni, ti sento giù, dovresti essere contento. No, voglio dire, rispetto al piano di integrazione di Air France, quello famoso, in cui obiettivamente noi fummo per quello, perché ritenemmo nel 2008 che dare l'Italia dei privati voleva dire, e con la bad company al resto degli italiani voleva dire accollarsi altre perdite. Purtroppo abbiamo avuto ragione, nel senso che gli italiani si sono pagati la bad company e i privati ci hanno rimesso i soldi con la good company. Però va anche detto che nel 2008 il piano di Air France era molto da neocolonialisti, praticamente tutti i passeggeri li portavamo a Parigi e grazie ai francesi. A me sembra che questo piano di Etihad sia più non rispettoso, ma creda di più nel rilancio dell'Italia. Vorrei sentire la tua opinione. Il piano del 2008, Parigi, c'era una parte dei voli che andava su Parigi, ma c'era anche uno sviluppo, era previsto un aereo in più a lungo raggio all'anno per l'Italia. Poi diciamo con la compagnia CAI questo non è stato fatto, a parte gli esuberi eccetera. Adesso Etihad investirà una cifra, c'è anche chi arriva a dire 600, 560, Etihad diciamo fino a, quindi vediamo poi quale sarà nella trattativa, investe dopo che la compagnia dovrà essere stata, come dire, svuotata dai debiti, ripulita dai debiti, quindi diciamo investe perché ci sono comunque i soci attuali, le banche, poi vediamo alla fine il conto, ci sono anche le Poste dentro che quindi subiranno una parte del costo perché sono azionisti di quella compagnia, la CAI, che si svuota. Come sarà, parliamo dello sviluppo industriale, il piano industriale dell'Alitalia targata Etihad, non è ancora stato ufficializzato, il perno diciamo dell'attività sarà comunque Abu Dhabi, come ha fatto già con Air Berlin o con qualche altra compagnia in Asia, in particolare in India. Etihad punta soprattutto a densificare, a far alimentare con i voli delle compagnie di cui è azionista il suo hub, il suo aeroporto Abu Dhabi. L'Italia avrà anche, così dice il piano che trapela, no? un aumento di alcune destinazioni a lungo raggio. Ci allora, dovrebbe essere un Malpensa a Shanghai l'anno prossimo e qualche 3-4 voli in più da Roma, 3-4 destinazioni. Però dimmi una cosa, poi ti faccio rispondere al resto dopo il traffico. Ti sembra migliore, uguale o peggiore rispetto a quello di Air France? Eh beh, il punto, se nel 2008 fosse stato fatto il piano di Air France il primo, la situazione oggi sarebbe migliore. Adesso questo piano interviene dopo che ci sono stati due fallimenti praticamente. Il fallimento pilotato dall'Italia per darla ai privati, alla CAI, ai capitani Coragione nel 2008, e poi di nuovo questa Italia sta arrivando al capolinea. Dici che, dici che il paragone non è proprio. Allora, esatto, allora ti rifaccio, allora ti rifaccio la domanda. Diverse. Ti sembra un buon piano per l'Italia o anche in questo caso c'è rischio colonizzazione? No, questo è giusto. No, allora io dico questo, il piano, gli arabi investono una somma importante dopo che sono stati tolti i debiti. L'incognita di questo piano, io dico sempre con qualche cautela perché non lo conosciamo ancora interamente, quindi che non significa che sia un giudizio negativo, è che Abu Dhabi, se molti voli saranno diciamo via Abu Dhabi per fare voli intercontinentali soprattutto verso l'Asia, questo comunque è uno scalo e potrebbe essere non necessariamente un potenziamento dell'Italia, che comunque in queste condizioni, arrivato ormai di nuovo al capolinea, quello della domanda da fare oggi è: ci sarebbe qualcuno che investe nell'Italia oggi? I soci attuali no. Allora ti rifaccio la domanda, è un buon piano o è un piano che prende per la gola l'Italia perché tanto non c'è nessun altro compratore? Allora, prende per la gola l'Italia, all'Italia avrebbe potuto, senza tornare al 2008, i soci attuali decidere in dicembre, quando Air France aveva chiesto di togliere i debiti per partecipare a quell'aumento di capitale che c'è stato, è stato detto di no, probabilmente perché stava prevalendo la linea di una trattativa con Abu Dhabi. Abu Dhabi mette più soldi, però diciamo chiede anche un taglio di molti più debiti, quindi è difficile poterlo dire prima. Insomma, è un piano di chi non ha più alternative e quindi è buono per forza. L'alternativa oggi sarebbe il fallimento. E quindi è buono per forza. Dopo il traffico il resto. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Gianni Dragoni, è difficile rispondere sì o no, mi rendo conto, ma abbiamo capito che in queste condizioni all'Italia non può che o così o pomì, diceva una famosa pubblicità, nel senso prenditi sto piano perché poi se no ti tocca ricapitalizzare e siamo punto a capo. Io dico anche, a me personalmente, ma non ci capisco molto, vista la grande espansione degli Emirati Arabi, cioè sono le due compagnie, i due gruppi di compagnie aeree al mondo che stanno facendo soldi, sono quelle asiatiche e quelle arabe, o sbaglio Gianni? Ce ne sono tutte le altre, mi sembrano molto in difficoltà. Boh, vediamo come va sto polo, vediamo se nasce una, se magari Emirates pone più concorrenza, visto che c'ha la concorrenza a quel punto in casa di Etihad, se Cathay Pacific decide di investire ancora di più sull'Italia, no? Ti vedo un po' scettico su questa ipotesi. No, ma io mi riferivo a come era prima. Allora, secondo diciamo le informazioni diciamo di cui disponiamo, che chiaramente non possiamo conoscere ancora dettagli che sono riservati o futuribili, se quando l'Italia era in condizioni meno gravi con Air France i soci avessero tentato di fare un discorso di investimenti con un partner come Air France, io credo che diciamo fare anche qualche volo intercontinentale via Parigi sia meno scomodo che farlo via Abu Dhabi. Poi se Abu Dhabi metterà dei voli in più a lungo raggio dall'Italia, allora si potrà dire che è stata una scelta migliore. Diciamo che ai soci attuali dell'Italia comunque fare questa operazione costa, soci quasi tutti privati, oltre alle Poste che comunque hanno messo 75 milioni in dicembre, ormai andati in fumo anche quelli, costa parecchio perché soprattutto le banche, ma non solo le banche, questo debito lo devono togliere. Ok, vediamo se allora ho capito benissimo cosa dici. Attenzione, questo è un piano che a questo punto ci conveniva prendere l'offerta di Air France nel 2008. però ormai la storia non si fa con ma anche nel 2013 forse Franz chiedeva per partecipare ma meno di quello che chiedeva ho capito. Dopodiché io non è che ce l'abbia con i francesi, cioè così una competizione, cioè, ma non è che Air France sia messa in condizioni eccellenti, cioè quando io prendo un Air France non noto questa differenza, non è che magari l'ingresso di Etihad porrà anche degli standard più alti all'Italia, cioè, l'ipotesi di girare a parte dei 140 nuovi Boeing Airbus per un valore di 100 miliardi di euro non è da sottovalutare, no? Beh, e allora gli aerei se verranno girati andranno pagati, quindi che li dia Etihad o che li prendano da un costruttore di aerei, non è che Etihad, come sta dimostrando una trattativa, regala degli aerei. Può darsi che avendo un ordine di 120 aerei lo possa dare a condizioni di prezzo un po' migliori rispetto a chi va da un costruttore e dice dammi tre aeroplani, ma sono comunque aerei che all'Italia dovrà pagare, che li prenda in leasing, paga l'affitto, li compra, li acquista. Comunque diciamo ci sarà, diciamo a questo punto ci sarà una ripresa degli investimenti che finora sono stati fermi. In questi cinque anni di gestione, non di Air France, ma di gestione della società che è la maggioranza di soci italiani, gli investimenti, tranne un po' di aerei piccoli, i famosi Embraer brasiliani che hanno sostituito gli ATR, aerei piccoli e scomodi, sì, cioè che si usano su rotte con bassa densità, su quelle rotte vanno anche bene, però l'Italia non ha aumentato la flotta a lungo raggio, certo. Che è stato un errore col seno di poi strategico, lo diciamo sempre, l'abbiamo detto anche del Torchio che sarà nostro ospite, il ministro delegato a breve, puntare sulle rotte interne e dimenticarsi il lungo raggio ha significato entrare in concorrenza e essere massacrati dal Frecciarossa e poi anche da Italo e perdere tutto il mondo dei nuovi ricchi che vogliono volare in Europa o dei manager europei, italiani che vogliono andare verso Asia, Brasile, Cina, India. Insomma, un errore strategico madornale, questo lo possiamo dire perché è facile dirlo. Grazie a Gianni Dragoni. Buonasera. Mi piace il tuo scetticismo su tutto, ho capito che tu puntavi su Air France, io non sono così d'accordo con te, ma ne capisco molto molto meno di te. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, facciamo la borsa rapidamente, dovrete accontentarvi di me oggi, giornata devo dire, l'abbiamo già detto in apertura, non di quelle indimenticabili per quello che riguarda Piazza Affari, meno 0,64% Milano, meno 0,30 Francoforte, meno 0,30 Parigi e meno 0,40 Londra. Bene Enel Green Power, seppur di poco, più 0,80, A2A più 0,70, Monte dei Paschi più 0,50%, banche in calo, c'è la settimana è tutta in attesa della Banca Centrale Europea, faccio notare però che nelle ultime due settimane in media i titoli bancari hanno fatto più 20%, comunque Banco Popolare meno 3%, Pop Milano meno 1,90%, Mediobanca meno 1,70%, Intesa meno 1,40%, cede anche Mediaset il 3%, World Duty Free, tra l'altro Mediaset, l'abbiamo detto più volte, sotto i riflettori deve decidere cosa fare sulle pay TV spagnole e poi i timori sull'asta per i diritti della Serie A. Dicevo, per quello che riguarda i cali, anche World Duty Free che perde il 2,40%, Azimut il 2,1%. Migliori e peggiori in assoluto oggi, Mondo TV France più 6,50, Mondo TV più 6,10 e poi poco altro, Prima Industria più 4,90, fronte opposto Metorius Capital meno 8,70, Meridi SPA meno 5,70, la Roma Calcio meno 5%. Ma adesso è la volta invece dell'altro tema di giornata, oltre all'Italia, la RAI, oggi dichiarazioni di ogni genere. Sono abbastanza colpito del fatto che la polemica sulla RAI nasce da un finto problema. Nessuno di noi ha chiesto di fare tagli ai programmi della RAI, ai contenuti della RAI. Noi abbiamo detto che in un momento in cui

ma si valuta se cambiano le condizioni, e cioè se si dice il decreto non sarà fatto così, vi saranno delle ipotesi diverse, si apre un confronto.